Cari fratelli e sorelle, oggi voglio parlare su un grande padre della Chiesa dell'Occidente, Sant'Ilario di Poitiers, una delle grandi figure dei vescovi del IV secolo. Nel confronto con gli ariani, che consideravano il figlio di Dio Gesù una creatura, sia pure eccellente ma solo creatura, Ilario ha consacrato tutta la sua vita alla difesa della fede nella divinità di Gesù Cristo, figlio di Dio e Dio come il Padre che lo ha generato fin dall'eternità. Non disponiamo di dati sicuri sulla maggior parte della vita di Ilario. Le fonti antiche dicono che nacque a Poitiers probabilmente verso l'anno 310. Di famiglia agiata, ricevette una solida formazione letteraria ben riconoscibile nei suoi scritti. Non sembra che sia cresciuto in un ambiente cristiano. Egli stesso ci parla di un cammino di ricerca della verità che lo condusse man mano al riconoscimento del Dio creatore e del Dio salvatore del mondo, morto per darci la vita eterna. Battezzato verso il 345, fu eletto vescovo della sua città natale, Poitiers, intorno al 353-54. Negli anni successivi, Ilario scrisse la sua prima opera, il commento al Vangelo di Matteo. Si tratta del più antico commento in lingua latina che ci sia pervenuto di questo Vangelo. Nel 356 Ilario assiste come vescovo al sinodo di Béziers nel sud della Francia, il sinodo degli falsi apostoli, come egli stesso lo chiama, dal momento che l'assemblea fu dominata dai vescovi filo-ariani che negano la divinità di Gesù Cristo. Questi vescovi falsi apostoli chiesero all'imperatore Costanzo la condanna all'esilio del vescovo di Poitiers e così Ilario fu costretto a lasciare la Gallia durante l'estate del 356. Esiliato in Frigia, nell'attuale Turchia, Ilario si trovò a contatto con un contesto religioso totalmente dominato dall'arianesimo. Anche lì la sua sollecitudine di pastore lo spinse a lavorare strenuamente per il ristabilimento dell'unità della Chiesa sulla base della retta fede formulata nel Concilio di Nicea. A questo scopo egli avviò la stesura della sua opera dogmatica più importante e conosciuta, il De Trinitate sulla Trinità. In essa Ilario mostra il suo personale cammino verso la conoscenza di Dio e si preoccupa di mostrare che la Sacra Scrittura attesta chiaramente la divinità del Figlio e la sua uguaglianza con il Padre, non soltanto nel Nuovo Testamento, ma anche in molte pagine dell'Antico Testamento che già fa apparire il mistero di Cristo. Di fronte agli ariani, egli insiste sulla verità dei nomi di Padre e di Figlio e sviluppa tutta la sua teologia trinitaria proprio dalla formula del battesimo. Non è una grande speculazione, ma la fede semplice donataci nel battesimo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo implica tutto e lo sviluppa proprio dalla formula del battesimo donataci dal Signore stesso la sua teologia. Il Padre e il Figlio collegati col E, Padre e Figlio e Spirito Santo, così dimostra, sono infatti della stessa natura. E se alcuni passi del Nuovo Testamento potrebbero far pensare che il Figlio sia inferiore al Padre, Ilario offre regole precise per evitare interpretazioni fuorvianti, regole per una retta lettura del Nuovo Testamento. alcuni testi parlano, così ci dice, di Gesù come Dio, altri invece mettono in risalto la sua umanità. Alcuni si riferiscono a lui nella sua preesistenza presso il Padre, altri prendono in considerazione lo stato di abbassamento, di kenosi, la sua discesa fino alla morte. Altri infine lo contemplano nella gloria della risurrezione. Sempre fermo nell'opposizione agli ariani radicali, Sant'Ilario mostra uno spirito conciliante nei confronti di coloro che accettavano di confessore che il figlio era somigliante al padre nell'essenza, naturalmente cercando di condurli verso la piena fede, cioè non solo somiglianza ma uguaglianza del padre e del figlio nella divinità. Ma anche questo mi sembra caratteristico, lo spirito di riconciliazione che cerca di comprendere quelli che ancora non sono arrivati e le aiuta con uno spirito di pace e con grande intelligenza teologica alla piena fede nella divinità vera del Signore Gesù Cristo. In 360-66 poteva finalmente dall'esilio ritornare in patria e subito riprese l'attività pastorale nella sua chiesa, ma l'influsso del suo magistero si estese ben oltre i confini di essa. Un sinodo celebrato a Parigi nel 360-61 riprende il linguaggio del Concilio di Nicea. Alcuni autori antichi pensano che questa svolta anti-ariana dell'Episcopato della Gallia sia stata in larga parte dovuta alla fortezza e alla mansuetudine del Vescovo di Poitiers. Questo è il suo dono, di collegare fortezza nella fede e mansuetudine umana. Negli ultimi anni di vita egli compose ancora i trattati sui salmi, un commento a 58 salmi interpretati secondo il principio evidenziato nell'introduzione dell'opera, dove scrive: non c'è dubbio che tutte le cose che si dicono nei salmi si devono intendere secondo l'annunzio evangelico, in modo che qualunque sia la voce con cui lo spirito profetico ha parlato, tutto sia comunque riferito alla conoscenza della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, incarnazione, passione e regno, e alla gloriosa e potenza della nostra risurrezione. E vede in tutti i salmi questa trasparenza del mistero di Cristo, del suo corpo, della Chiesa. Interessante anche che in diverse occasioni Ilario si incontrò con San Martino, proprio vicino a Poitiers. Il futuro vescovo di Tours, San Martino, fondò un monastero che esiste ancora oggi. Ilario morì nel 367, la sua memoria liturgica si celebra il 13 di gennaio e nel 1851 il Beato Pio IX lo proclamò dottore della Chiesa. Per riassumere l'essenziale della sua dottrina, vorrei dire: Ilario trova il punto di partenza della sua riflessione teologica nella fede battesimale. In questo grande libro di Trinitate scrive: Gesù ha comandato di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè nella confessione dell'autore, dell'unigenito e del dono. Uno solo è l'autore di tutte le cose, perché uno solo è Dio Padre, dal quale tutto procede, e uno solo è il Signore nostro Gesù Cristo, mediante il quale tutto fu fatto, e uno solo è lo Spirito, dono in tutti. Dio Padre, essendo tutto amore, è capace di comunicare in pienezza la sua divinità al Figlio E trovo particolarmente bella la seguente formula di Sant'Ilario: Dio non sa essere altro se non amore, non sa essere altro se non padre. E chi ama non è invidioso, e chi è padre lo è nella sua totalità. Questo nome non avete compromessi, quasi che Dio sia padre in certi aspetti, in altri non lo sia. È padre nella sua totalità e è amore nella sua totalità. Per questo il figlio è pienamente Dio senza alcuna mancanza o diminuzione. Colui che viene dal perfetto è perfetto, perché chi ha tutto gli ha dato tutto. Soltanto in Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, trova salvezza l'umanità. Assumendo la natura umana, il figlio ha unito a sé ogni uomo e dice: si è fatto la carne di tutti noi, attraendo a sé l'umanità, ha tratto tutti noi, tutta l'essenza della natura umana, ha assunto in sé la natura di ogni carne e divenuto per mezzo di essa la vita vera, ha in sé la radice di ogni tralcio. Proprio per questo il cammino verso Cristo è aperto a tutti, perché ha attirato tutti nel suo essere umano. Il cammino a Cristo è aperto a tutti, anche se è richiesta sempre la conversione personale, dice San Ilario, mediante la relazione con la sua carne. L'accesso a Cristo è aperto a tutti a patto che si spogliano dell'uomo vecchio e lo inchiodino alla sua croce, a patto che abbandonino le opere di prima e si convertano per essere sepolti con lui nel suo battesimo in vista della nuova vita. La fedeltà a Dio è un dono della sua grazia. Perciò Sant'Ilario chiede alla fine del suo trattato sulla Trinità di potersi mantenere sempre fedele alla fede del suo battesimo. È una caratteristica di questo libro che la riflessione si trasforma in preghiera, la preghiera si ritorna alla riflessione, tutto il libro è un dialogo con Dio. E vorrei concludere questa catechesi con una delle preghiere di questo libro, che è proprio anche preghiera nostra, e preghiamo così con Sant'Ilario: fa, o Signore, che io mi mantenga sempre fedele a ciò che ho professato nel simbolo della mia rigenerazione, quando sono stato battezzato nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Che io adori te, nostro Padre, insieme con te il tuo Figlio, che io meriti il tuo Spirito Santo, il quale procede da te mediante il tuo unigenito. Amen.